Un'amica. In attesa del premio. Mi venne a trovare una mia cara amica, Grammy. Da M è morta a gennaio. L'ho riconosciuta subito. Io, hai un viso così contento, dove sei? Lei, in un bellissimo salone, e disparve. Questa sua frase mi ha seccato un po'. Mi sembrava tanto terrena. 3 giorni dopo venne di nuovo. Io, perché hai un'espressione così materiale parlando di un salone? Lei, perché tu mi possa capire ho parlato da uomo a uomo. Io, sei in cielo. Lei, no, sono nell'attesa del premio. Io, premio, perché? Dimmelo, affinché possa anch'io diventare come te. Lei, adempimento del proprio dovere e spirito di sacrificio. Io, lo sai che hai lasciato tuo marito? Lei, noi guardiamo con occhi diversi. Tutto è per il meglio. Io, dimmi, che cosa è il luogo dell'attesa? Lei, l'ultimo gradino del desiderio. Io, perché sei venuta da me dal momento che non hai bisogno più della mia preghiera? Lei, per farti una gioia, io sapevo di te. Io, vedi ancora il mio corpo o la mia anima? Lei, la tua anima. Noi siamo quelli che son sciolti dal corpo. Io, però io ti vedo come eri. Dimmi un po' come si spiega questo. Lei, perché tu non sei ancora capace di poter vedere la anima. Io, è possibile vedere proprio un'anima? Lei, c'è forse una luce che non fa luce? Io, dimmi che cosa c'è in me di cattivo? Lei, tu godi ancora dell'amore delle creature, devi essere totalmente libera. Adesso se ne andò. Come era bello parlare con lei. Oh, sì. Essere del tutto libera e appartenere solo a Dio. Lo sapevo che era questo che si doveva fare, ma...